Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 1 febbraio, puntata numero 17 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi, prima di iniziare con la consueta introduzione all'argomento della puntata di oggi, volevo scusarmi per quanto accaduto lo scorso sabato, perché la puntata di Bologna e dintorni non è andata in onda a causa di un errore tecnico. Succede anche a noi, non ero in vacanza purtroppo, ma la puntata, è come tutte le altre, può essere riascoltata alla pagina dei podcast che trovate sul sito di Radio Città Fucico. Oggi Bologna e dintorni ci porta in Africa, più precisamente in Africa subsahariana, dove due paesi, il Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, sono da mesi oggetto e teatro di crisi politiche e di instabilità anche militari molto notevoli. Sono due paesi le cui crisi condividono e hanno molto in comune, ma che mantengono una loro precise peculiarità e differenze. Certo, il fatto che soltanto oggi, dopo 16 puntate, Bologna e dintorni ci porti a parlare di quanto accade in Africa, un continente che rimane centrale per gli equilibri e gli squilibri internazionali, la dice lunga anche sulle colpe che ha la trasmissione, io per primo, rispetto a come e da dove si guardano gli equilibri del mondo. Insomma, tacere di quanto accade in Africa, in molti paesi dell'Africa, fino a oggi è sicuramente, diciamo, un elemento non proprio positivo. Oggi cerchiamo di recuperare terreno e di capire quanto sta accadendo in Sudan, in Repubblica Democratica del Congo, dove, vi do soltanto questa anticipazione, milioni di persone, decine di milioni di persone sono oggi in fuga dalle proprie case e si trovano a dover essere dislocate in altri territori all'interno dei propri paesi, oppure a emigrare in altri paesi dell'Africa, determinando ulteriore instabilità nella regione dell'Africa subsahariana. Ariana. Per approfondire l'argomento di oggi e per cercare di capire che cosa sarà dei sogni fragili dell'Africa subsahariana, vi chiedo di pazientare ancora qualche minuto e di risentirci dopo una breve pausa musicale. A tra poco. I let you back in. Agile Dreams, questi erano gli Anatema. Bentornate e bentornati alla puntata di oggi di Bologna e dintorni. Parleremo di due conflitti, di due crisi che sono in corso nell'Africa subsahariana, in particolare in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo. Per orientarci in questo quadro abbiamo oggi come ospite Francesca Caruso, analista e ricercatrice che si occupa di mediazione dei conflitti in Africa centrale, collaboratrice della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Francesca. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie mille a te per essere qui con noi oggi in collegamento. Dunque, partirei immediatamente con una domanda sulla prima dimensione, sul primo conflitto, la prima crisi, che è quella del Sudan. Ci aiuti a capire che cosa sta succedendo nel paese? Allora, dall'aprile del 2023 il Sudan è devastato da un conflitto tra due forze, cioè tra le forze armate sudanesi, quindi l'esercito regolare, detto in gergo SAF, e le forze di supporto rapido, quindi RSF, che sono due fazioni in lotta per il controllo del paese. Gli scontri si estendono dall'aprile del 2023 su più fronti, con battaglie decisive intorno alla capitale, che è Khartoum, nella regione occidentale del Darfur e nella regione del Kordofan, quindi nel centro del paese, creando una crisi umanitaria senza precedenti. Ora, qual è la situazione? È che recentemente l'esercito regolare sta riconquistando delle città strategiche del nord Kordofan. Questa regione, che come vi dicevo prima, è una regione al centro del paese, chiave perché appunto collega il nord e il sud del paese, ed è da sempre stata un crocevia commerciale e agricolo. Come è iniziata questa guerra? Per capire come è iniziata questa guerra bisogna ritornare al 2019. Perché? Perché nel 2019, grazie a una mobilitazione spettacolare del popolo sudanese, Omar al-Bashir, che è stato un dittatore praticamente a 30 anni al potere, è stato deposto perché appunto l'annuncio di volersi candidare a un terzo mandato e l'aumento dei prezzi del cibo aveva spinto centinaia di organizzazioni civiche e politiche a formare le Forze di Libertà e Cambiamento, una coalizione che mirava a una transizione democratica del paese. Tuttavia, che cosa è successo però? Che nel 2021 l'esercito ha ripreso il potere attraverso un colpo di Stato, interrompendo il processo democratico, portando infine alla guerra attuale. Ora, l'attuale conflitto è scoppiato nel 23 tra il presidente del Consiglio sovrano di transizione Al-Burhan e il suo vice, che è il generale Mohamed Hamdan Dagalo, conosciuto come Hemeti, leader di queste RSF. Inizialmente erano alleati i due, però poi si sono scontrati sulla gestione del potere con l'influenza degli islamisti che sostenevano Burhan nella speranza di eliminare sia Hemeti che le forze democratiche. Quindi la guerra di oggi in Sudan è il risultato diretto del fallimento della transizione democratica, della frammentazione del potere e della volontà degli islamisti di mantenere il controllo del paese. Bene, questo per quanto riguarda il Sudan, Francesca, spostandoci in Repubblica Democratica del Congo, che cosa sta succedendo nel paese? Allora, la situazione nella Repubblica Democratica del Congo continua a peggiorare. Perché? Perché il 27 gennaio, i ribelli del M23, apparentemente, sostenuti dal Ruanda, hanno preso il controllo di Goma, che è la capitale del Nord Kivu, segnando una drammatica escalation del conflitto. Quindi cosa è successo? Che più di 2 milioni di persone sono state sfollate a causa dei combattimenti, esponendo migliaia di civili agli attacchi di varie milizie. Ora il Ruanda e l'M23, controllano gran parte della provincia del Nord Kivu e stanno avanzando verso il sud Kivu, minacciando la capitale di questa regione che si chiama Bukavu. L'eventuale caduta di questa regione potrebbe ampliare il conflitto su scala regionale, riportando la regione a livelli di instabilità che sono già stati vissuti negli anni 90 e agli inizi degli anni 2000, quando milioni di persone sono morte in un conflitto multinazionale. Sì, Francesca, le due crisi, seppur nella loro, diciamo, diversità e nel loro essere, diciamo, geograficamente distinte, manifestano alcuni elementi comuni. Il primo lo hai menzionato tu più volte, il ruolo delle forze armate, dei militari, dei gruppi armati in entrambe le crisi, sia in Sudan che nella Repubblica Democratica del Congo. L'altro elemento comune che mi viene in mente è quello delle risorse, della presenza di grandi, ingenti quantità di risorse minerarie in entrambi i paesi, nonché di idrocarburi, in particolare in Sudan, per quest'ultimo elemento. Di questo, diciamo, nella letteratura, delle relazioni internazionali e anche della scienza politica si è parlato di maledizione delle risorse, però, chiederei a te, oltre a questi elementi, se ce ne siano altri in comune ai due paesi e alle due crisi, ed eventualmente quali sono gli elementi, i fattori di discontinuità e di differenza per i due scenari di cui ci stiamo occupando. Quello che tu dici è vero, adesso magari lo spiego insomma, più nei dettagli, però quello che vorrei sottolineare è che secondo me entrambe le crisi, sia quella sudanese che questa della Repubblica Democratica del Congo, sottolineano un elemento importante per la stabilità e la pace in Africa. Cioè molto spesso noi ci concentriamo su appunto la maledizione delle risorse naturali, che possa essere la maledizione dell'oro, dei diamanti e anche dell'ingerenza di potenze straniere, come per esempio, non so, nel Sudan si parla moltissimo dell'ingerenza straniera degli Emirati Arabi Uniti, ovviamente adesso in questa crisi congolese, Ruanda è il primo accusato perché sembrerebbe appunto sostenitore di questo movimento ribelle dell'M23 che mira a prendere non soltanto il controllo della regione del Kivu, quindi dell'est, ma sembrerebbe oggi avere un'agenda più nazionale, quindi con l'intenzione di rovesciare proprio il potere a Kinshasa. Detto questo, una cosa importante da sottolineare è che la stabilità del continente, la pace, come lo vediamo appunto in Sudan, in Congo, ma l'abbiamo visto in Etiopia, lo vediamo nella Repubblica Centrafricana, lo vediamo in Chad, non esiste se non c'è una cooperazione regionale. Cioè, i primi a dover essere responsabili di quello che accade è la regione. perché ci possono essere molti interessi e molti fattori di destabilizzazione tra i paesi vicini. Quindi, tornando però agli elementi comuni, quali sono in questa crisi in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo? Allora, la prima è sicuramente che entrambi i paesi hanno una fragilità istituzionale e una governance debole. La seconda, come abbiamo detto, è l'influenza e le interferenze esterne, cioè per esempio in Sudan si considera che Hemeti, quindi le RSF, sono sostenute prevalentemente dagli Emirati Arabi Uniti, mentre invece l'esercito regolare, sarebbe sostenuto dall'Arabia Saudita e dall'Egitto in particolare. In Congo l'abbiamo detto, il Ruanda è accusato di sostenere l'M23, mentre l'Uganda avrebbe, interessi nell'est del paese. Ora, la cosa però che accomuna più di tutti anche questi due conflitti è che c'è una crisi umanitaria senza precedenti in entrambi i paesi, con una violenza contro i civili che molto spesso fa pensare al fatto che si siano in atto dei veri e propri genocidi come in Sudan. Quindi, per esempio, per darvi dei numeri, in Sudan oggi ci sono 9 milioni di sfollati interni, con altri 3 milioni che sono fuggiti nei paesi limitrofi. La maggior parte di questi rifugiati sono andati in Chad, quindi nell'ovest del paese, in una regione che è chadiana, che era già poverissima, destabilizzando quindi anche lo stesso Chad. Nella Repubblica Democratica del Congo, invece, la situazione sta peggiorando e attualmente ci sono 21 milioni di persone che necessitano aiuti umanitari, che è una delle cifre più alte al mondo. Circa 1 milione di persone ha già cercato rifugio nei paesi vicini e l'escalation nell'est rischia di aggravare ulteriormente la crisi umanitaria. Sì, ecco, grazie per Ora, aver acceso un faro, insomma, per aver illustrato anche quali sono le conseguenze e le implicazioni, che poi è il fatto più grave, ci viene da dire, per la popolazione, per le popolazioni e per le persone. E parliamo, come hai avuto modo di sottolineare, di numeri parecchio, parecchio grandi, e quindi questo rende il dramma delle due crisi in atto ancora più grave. Francesca, un'ultima domanda, ci rimane ancora qualche minuto. Hai menzionato nella tua precedente risposta le ingerenze, le interferenze dei paesi, di altri paesi, non soltanto africani, all'interno delle due crisi in atto. Questo, diciamo, per quanto attiene quando si parla di crisi dei paesi o di conflitti nella regione dell'Africa subsahariana, purtroppo non è una novità. Io ti chiederei di aiutarci brevemente a comprendere, diciamo allargando il discorso, ma lo hai già menzionato in parte, qual è l'intreccio di queste interferenze e qual è il ruolo dell'ONU, se un ruolo l'ONU ce l'ha all'interno delle due crisi in atto per la risoluzione dei due conflitti, delle due crisi. le interferenze straniere, come appunto abbiamo già detto prima, purtroppo in questi ultimi anni abbiamo visto che il continente africano, attraverso diverse crisi, appunto come quella dell'Etiopia, come questa del Sudan, come il Congo, come ho detto prima, la Repubblica Centrafricana, il Chad, sono spesso anche il risultato di interferenze straniere, sia di paesi del Golfo, ma sia anche, abbiamo visto appunto questa escalation, anche questa progressiva presenza dei mercenari russi, per esempio, che hanno anche ulteriormente creato instabilità non solo nell'Africa centrale, ma anche nel Sahel. E poi però, come ho detto prima, è anche importante ricordarsi che alcune volte le instabilità non sono solo da ingerenze straniere, nel senso che vengono al di fuori dall'Africa, ma anche sono i paesi vicini stessi che possono creare instabilità. Ora, il grosso problema, che poi si rifà anche alla tua domanda sull'ONU, è che in questi ultimi anni abbiamo visto un progressivo indebolimento delle organizzazioni regionali del continente. L'abbiamo visto nel Sahel, l'abbiamo visto nel Corno d'Africa. L'abbiamo visto appunto la stessa Unione Africana, cioè le organizzazioni regionali sono progressivamente state incapaci di prevenire e risolvere le crisi in atto. In tutto questo contesto anche l'ONU ha, diciamo, avuto dei duri colpi. Lo abbiamo visto in Mali, per esempio, dove la MINUSMA è stata cacciata. In Sudan ad oggi non c'è l'ONU e le missioni umanitarie dell'ONU hanno grossissime difficoltà di operare, ovvero proprio l'accesso per gli aiuti umanitari è molto difficile. E mentre invece in Congo c'è ancora una missione multilaterale, i Caschi Blu dell'ONU, che però sono stati molto criticati perché, nonostante siano lì da più di un decennio, non hanno risolto la crisi. Mi piacerebbe però spezzare una lancia a favore anche dei Caschi Blu dell'ONU, perché invece ci sono altri contesti, come per esempio questo della Repubblica Centrafricana, dove invece la missione dei Caschi Blu dell'ONU, che si chiama la MINUSCA, è uno strumento estremamente efficace per la stabilità e la pace del paese, non solo per tutte le operazioni di disarmo, ma anche per la protezione dei civili e, diciamo, la gestione della prevenzione e della risoluzione dei conflitti a livello locale. Sì, benissimo Francesca, grazie anche per aver problematizzato, insomma, restituito il giusto dettaglio per quanto riguarda l'influenza dell'ONU e delle forze ONU in Africa subsahariana. Insomma, come sempre accade, non è il caso ed è bene non accontentarsi delle ipersemplificazioni. Francesca, io ti ringrazio molto per il tuo tempo e la tua disponibilità. Grazie Francesca Caruso. Grazie a voi, grazie. Noi per oggi terminiamo qua. La prossima settimana, sabato 8 febbraio, Bologna e dintorni non andrà in onda. Lasceremo campo a uno speciale su Art City. Quindi ci risentiamo sabato 15 febbraio. La radio e le frequenze le conoscete già, sono quelle di Radio Città Fucico.